Capitolo 151. Dalle Simplegadi alla Colchide. Fineo aveva messo in guardia gli argonauti contro il pericolo delle rocce Simplegadi o plankte o cianee che perennemente avvolte dalla nebbia marina insidiavano le navi dirette al Bosforo. Quando un vascello cercava di passarvi in mezzo, queste rocce si stringevano l'una all'altra e lo fracassavano. Ma secondo il consiglio di Fineo, Eufemo liberò una colomba o altri dicono un airone perché volasse dinanzi al largo. Non appena le rocce ebbero mozzato le penne della coda dell'uccello per poi separarsi di nuovo, gli argonauti si inoltrarono nello stretto passaggio vogando a tutta forza, aiutati da Atena e dal suono incoraggiante della lira di Orfeo, e persero soltanto l'ornamento di poppa. Da quel giorno, secondo una profezia, le due rocce rimasero ferme ai due lati dello stretto e benché la forza della corrente ostacolasse la navigazione, gli argonauti premettero sui remi fino a curvarli ed entrarono nel Mar Nero sani e salvi. Costeggiando la sponda meridionale giunsero all'isoletta di Tinia, dove Apollo si degnò di mostrarsi a loro in un alone di luce gloriosa. Orfeo innalzò un altare al dio e gli sacrificò una capra come ad Apollo dell'alba. Gli argonauti giurarono di non abbandonare mai i loro compagni in caso di pericolo e il tempio di Armonia, costruito nell'isola, commemora il loro voto solenne. Di lì fecero vela per la città di Mariandine, famosa per il vicino Orrido, donde Eracle emerse con Cerbero dall'oltretomba e furono cordialmente accolti da Re Lico. Re Lico aveva già avuto la notizia della morte del suo rivale, Re Amico, e in segno di gratitudine offrì agli argonauti il proprio figlio Dascilo perché li guidasse nel loro viaggio lungo la costa. Il giorno seguente, quando già erano sul punto di imbarcarsi, il veggente Idmone fu attaccato da un cinghiale inferocito che stava in agguato sulle rive del fiume Lico e che lo ferì affondandogli le zanne nella coscia. Ida accorse in aiuto di Idmone, e quando il cinghiale li attaccò di nuovo, lo impalò sulla sua lancia. Tuttavia Idmone morì dissanguato, nonostante le cure prestategli, e gli argonauti lo piansero per 3 giorni. Poi anche Tifide si ammalò e morì, e i suoi compagni dolenti gli innalzarono un tumulo accanto a quello dedicato a Idmone. Dapprima il grande Anceo, poi Ergino, Nauplio ed Eufemo, tutti si offrirono di sostituire Tifide al timone. Anceo fu il prescelto e si rivelò abilissimo. Da Mariandine gli argonauti proseguirono verso Oriente e il vento gonfiò le loro vele per molti giorni finché raggiunsero Sinope in Paflagonia, città così chiamata dalla figlia di Asopo. Zeus, innamoratosi di lei, le promise in dono ciò che più desiderasse. Sinope astutamente scelse la verginità e, stabilitasi sulle rive del Mar Nero, trascorse il resto dei suoi giorni in serena solitudine. A Sinope Giasone reclutò 3 uomini per occupare i posti vacanti sulle panche dei vogatori, e cioè i fratelli dei Leone, Autolico e Flogio di Tricca, che avevano accompagnato Eracle nella sua spedizione al regno delle Amazzoni e, separatisi da lui per caso, vagavano ora sperduti in quella remota regione. Largo oltrepassò veleggiando il paese delle Amazzoni e il paese dei Calibi, lavoratori di ferro, che non coltivano mai il suolo né allevano greggi, ma vivono dei guadagni delle loro fucine. E il paese dei Tibarenti, dove è usanza che i mariti gemano, come se partorissero mentre le loro mogli sono in travaglio. E il paese dei Mesineci, che vivono in capanni di legno, si accoppiano promiscuamente e portano lance lunghissime e scudi bianchi a forma di agrifoglio. Presso l'isoletta di Ares, densi stormi di uccelli volarono sul largo lasciando cadere piume di bronzo, e una di queste piume ferì Oileo alla spalla. Anche gli argonauti, memori dei consigli di Fineo, si misero gli elmi in capo e gridarono con quanta voce avevano in corpo. Metà di loro continuarono a remare, mentre gli altri li proteggevano con scudi, battendovi sopra con le spade. Fineo li aveva inoltre consigliati di approdare all'isola, e vi approdarono, infatti, mettendo in fuga miriadi di uccelli finché non ne rimase nemmeno uno. Quella sera stessa ebbero modo di apprezzare l'avvertimento di Fineo poiché si levò una violenta tempesta e quattro eoli, aggrappati a un relitto, furono gettati a riva nei pressi del campo. Costoro erano Citisoro, Argeo, Frontide e Melanione, figli di Frisso e di Calciope, che era a sua volta figlia di re Eete della Colchide e dunque parente stretta di molti tra gli argonauti. Essi erano naufragati mentre navigavano verso la Grecia, poiché volevano far valere i loro diritti al trono di Orcomeno, un tempo occupato dal loro nonno Atamante. Giasone li accolse con molta cordialità e tutti assieme offrirono sacrifici su una pietra nera nel tempio di Ares. Colà la fondatrice del tempio stesso, l'amazzone Antiope, aveva un tempo sacrificato cavalli. Quando Giasone spiegò che scopo della sua spedizione era di riportare in Grecia l'ombra di Frisso e di recuperare il vello dell'ariete, Citisoro e i suoi fratelli si trovarono dinanzi a un dilemma. Benché devoti alle memorie del padre loro, temevano di offendere il nonno chiedendogli il vello. Tuttavia, che altro potevano fare se non allearsi con questi cugini che li avevano salvati da morte certa? Largo oltrepassò l'isola di Filira, dove Crono si giacque con Filira, figlia di Oceano, e fu colto sul fatto da Rea, a che si trasformò in stallone e galoppò via, mentre Filira generò poi un bambino, mezzo uomo e mezzo cavallo, che divenne il saggio centauro Chirone. Poiché il mostriciattolo che doveva allattare le faceva ribrezzo, Filira chiese agli dei di diventare un'altra e fu trasformata in Tiglio. Ma taluni dicono che questa metamorfosi si verificò in Tessaglia o in Tracia, non nell'isola di Filira. Ben presto la catena del Caucaso torreggiò sopra gli argonauti ed essi entrarono nella foce del grande fiume Fasi che bagna la Colchide. Dopo aver libato agli dei del luogo con vino misto a miele, Giasone celò Largo in un'ansa del fiume e tenne consiglio di guerra. Le rocce dei naufragi, o vaganti o azzurre, avvolte da nebbia marina, pare fossero blocchi di ghiaccio scesi fino al Mar Nero lungo i fiumi russi. Le leggende sorte attorno a queste rocce erano rafforzate da terrificanti descrizioni del Bosforo, dove le correnti alimentate dall'apporto dei grandi fiumi russi acquistano a volte la velocità di 5 nodi. Anche i mercanti d'ambra parlavano di altre isole vaganti nel Mar Baltico. I cenotafi, innalzati in tempi posteriori dai colonizzatori greci che volevano onorare i loro eroi Idmone e Tifide, fecero forse nascere la leggenda che i due eroi fossero morti nel corso di questo viaggio. Si dice che Idmone perisse ucciso da un cinghiale, come Zeus Cretese, Anceo e Adone, tutti antichi re sacri. Il nome di Idmone, colui che sa, lascia supporre che gli fosse dedicato un santuario oracolare, e infatti Apollonio Rodio ci parla di lui come di un veggente. Mariandine fu così chiamata in onore di Ma-ri-enna, che in sumerico significa ferace madre del cielo, alias Mirine, Aimari o Mariamne, una ben nota dea del Mediterraneo orientale. Calips era parola greca che indicava il ferro, e Calibi pare fosse un appellativo dei Tibareni, i primi uomini che lavorarono il ferro nell'antichità. Nella Genesi la loro terra è chiamata Tubal, Tubal uguale Tibar, e Tubal Cain indica i Tibareni che entrarono in Canaan dall'Armenia con le orde degli Ixos. La cuvada praticata dai Tibareni è ancora in uso, in forma modificata, in molte parti d'Europa. I costumi dei Mesineci, descritti da Senofonte, e non dimentichiamo che Apollonio Rodio studiò con cura la sua Anabasi, presentano notevoli analogie con quelli dei Pitti scozzesi e dei Side irlandesi, tribù che giunsero alle isole britanniche dal Mar Nero agli albori dell'età del bronzo. Gli stormi di uccelli che popolavano l'isoletta di Ares, ora nota come isoletta di Puga presso il fiume Kessab, fanno supporre che Largo arrivasse laggiù ai primi di maggio. Dopo aver attraversato il Bosforo quando le correnti non erano ancora troppo violente, la nave approdò a Puga nel periodo delle grandi migrazioni di uccelli dalla penisola del Sinai. Pare che una moltitudine di questi uccelli esausti, dopo aver superato le montagne dell'Asia Minore diretti verso il Volga, si fermassero all'isoletta di Puga per riposare. Posatisi sul largo, terrorizzarono i superstiziosi marinai della spedizione. Secondo il Nicol, questi stormi erano composti di accertelli, allodole, anatre selvatiche e altri uccelli acquatici, ma poiché l'isoletta era sacra ad Ares, i mitografi si figurarono queste innocue bestiole ricoperte di penne di bronzo e animate da intenzioni malvagie. La leggenda di Eracle che mette in fuga gli uccelli stinfalidi facendoli emigrare in un'isola del Mar Nero è stata probabilmente dedotta dall'avventura degli Argonauti e non viceversa, come di solito si crede. Chirone, che aveva fama di medico, di erudito e di profeta, si meritò l'appellativo di figlio di Filira, Tiglio, egli anche detto discendente di Issione. I fiori di Tiglio erano molto usati nell'epoca classica come calmanti e lo sono ancora. Inoltre, la parte interna della corteccia del Tiglio forniva ottime tavolette di scrittura e, tagliata in strisce, serviva per pratiche divinatorie. Indubbiamente l'isola di Filira fu così chiamata perché vi sorgeva un bosco di tigli, più che per i suoi legami mitici con la Tessaglia e con la Tracia. Nessuna di queste isole costiere è lunga più di 100 metri. La Colchide è ora nota come Georgia e il fiume Fasi come Rion.